oltre le montagne non si vede nulla. Io mi fiderò e verrò con te, io verrò con te. Da Marco Roma, buongiorno. E buongiorno Marco Roma. Buongiorno Marco Roma, anche se ormai è sera inoltrata. In effetti. E infatti forse dovrebbe aggiornare un po'. No, ma visto che lui va in onda solo presto di noi, potrebbe dire buonanotte. Ma tu ne hai la certezza assoluta che lui va in onda solo presto di noi? Io devo non ammettere, ne ho la certezza certo, io sì, perché ascolto tutto il palinsesto di Radio Città Fujiko dalla mattina. Dalla mattina alla sera, anzi, non vado nemmeno a dormire per ascoltare. E siamo qua? Adesso lascio tutta la parola a te, Chiara Pergola, e benvenuta nello studio di Coxo Spaziale, naturalmente come co-conduttrice praticamente supplente fissa. Esatto. Almeno per questo semestre, ma non siamo qua soli, io e Pasquini. No. Siamo in ottima compagnia, come sempre, e abbiamo qui due ospitesse. Di cui adesso andiamo a declamare il nome e a elencare tutte le varie proprietà. Allora, partiamo in ordine cronologico? Di prossimità. Allora, parliamo di prossimità. Ok, allora, alla mia destra siede Giovanna Caimmi, insegnante e artista, o artista e insegnante, nell'ordine che Io si applaudo. Preferisce, e neodottoranda. Ebbene sì. E alla destra di Giovanna Caimmi abbiamo Tatiana Basso, ricercatrice di complessità. Questo viene fuori perché non mi ricordo, mi ha detto una cosa, era complicata, ma io non me la ricordo più, non l'ho scritta. Dottorato in scienze umane all'Università di Ferrara. Anche lei neodottoranda, ho rimosso tutto, però anche mediatrice culturale delle arti contemporanee, anche se questo titolo me lo ridice poi meglio Tatiana, vero? Adesso, dopo. Anche adesso. Diplomata in mediazione culturale del patrimonio artistico all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Di Bologna, ecco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Complesso. E Giovanna Caimmi insegna all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Da troppo tempo. Adesso qua svegliamo una di quelle cose un po' autoreferenziali che piacciono tanto al nostro direttore. Esatto. Nel frattempo io gli ho messo, per tenermelo buono, gli ho messo la sigla di Popolare Network. Ecco. Così si sente a casa, no? Sì. Così si tranquillizza. Esatto. Vai pure con l'autoreferenzialità. Sia io che Tatiana siamo state studentesse di Giovanna. Io mi ricordo che quando ero non proprio piccolissima, perché io mi sono iscritta molto tardi, però insomma ai miei primi passi, alla presentazione dei corsi compare Giovanna Caimmi, che ci dice che lei era nata lì, aveva studiato lì al liceo e poi all'accademia, ha studiato lì e poi ancora insegnato lì. E quindi la mia prima domanda è: ma non ti sei annoiata? Me lo sono sempre chiesto. Ma sì, c'è stato un momento che volevo andarmene a insegnare a Milano, ma sì, ho parlato col direttore di Milano, ha detto benissimo, vieni qua, e 15 giorni dopo aspettavo mia figlia, quindi ho ritirato i remi in barca e sono rimasti nel grande paesone. Però per compensare tutta questa stanzialità hai deciso poi di fare il Belgio da tutt'altra parte, di portare il Belgio a Bologna. Queste sono le dislocazioni geografiche che solo a Coxo Spaziale possono accadere. No, di andare a fare il dottorato da tutt'altra parte, sì, cioè in Belgio. Sì, non ho deciso niente, sono andata là, ho fatto un teaching di una settimana e loro mi hanno proposto questa avventura che, vista l'età, è solo proprio un'avventura. Ecco, giustamente Tatiana sta facendo questa cosa perché chi fa il dottorato adesso lo userà per lavorare. Io sono stato studente di Tatiana invece. Davvero? Uno dei più bravi. Volevi vedere chi ci crede. Rigirando cocsicamente lo spazio temporale, così non capisci più niente nessuno. E io sono stata studentessa tua, quindi a questo punto abbiamo creato un loop, esatto. Un wormhole spazio temporale che inghiotte tutte le nostre numerose età, le quali sommate fate. Adesso io, ecco, adesso faccio dobbiamo adesso fare facciamo questa cosa. Mentre noi facciamo mentre voi fate questa cosa qua, io invece vi interrompo subito e metto un pezzo. Mettici perché mi è arrivato un pezzo nuovo da è quasi un Marco Roma, però un po' diverso. Quanto durerà? No, dura 2 minuti e 45. Si intitola Santa Fe ed è di Tullo e i Rebel Hot. Adesso ve lo faccio sentire, così dopo l'abbiamo sentito. Una sola notte, una sigaretta per non avere fretta. In una vita stretta ho preso un volo per venire da te nel deserto arido di Santa Fe. Vedo le tue impronte lasciate sulla sabbia, ho chiesto in giro ma non sei più qui. Con un battito d'ali sono più vicino, non riesco ad afferrarti perché sono un cretino. Fai la rivoluzione, io sul furgone, ci troviamo a Lione per un caffè. Una sola notte, una sigaretta per non avere fretta. In una vita stretta, con un battito d'ali, sono più vicino. Non riesco ad afferrarti perché sono un cretino. Non c'è oceano, non c'è atmosfera, voliamo sospesi nella stratosfera. Smetti di cantarmi, smetti di cercare, apri gli occhi che è tardi a Santa Fe. Com'è stato il viaggio? Tutto bene a te, tutto bene a me. A Santa Fe, con un battito d'ali, sono più vicino, non riesco ad afferrarti perché sono un cretino. A Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe. Yuppie. Allora, questo noi, era Tullo Petazzi con i Rebel Hot, e il pezzo si chiamava Santa Fe. Santa Fe, io chi dicevo, di voi è stato a Santa Fe? Io no, mai. Beh, Giovanna men che meno, perché è sempre stata a Bologna. Adesso non esageriamo. No, qui ti sbagli. Sono una viaggiatrice incallita. Ah, quindi potevi esserci stata a Santa Potevo esserci stata. 333-180-94-94, se qualcuno da Santa Fe vuole mandarci un messaggio o un vocale. O anche da Campo Gagliano. O anche da Campo Gagliano, eventualmente. Eventualmente. Intanto noi qui, dopo lunga trattativa, siamo riuscite a stabilire che la somma di tutti i nostri anni messi insieme, compresi quelli di Stefano Pasquini, che ha alzato notevolmente la media, arriviamo a 203. Cioè, e considerando che abbiamo una preadolescente, praticamente è abbastanza preoccupante. Sì, ma preadolescente, adesso abbiamo appena finito di dire che stava uscendo dalla porta della giovinezza. È vero, quindi vabbè, giusto. Della giovinezza assoluta. Ecco. Della giovinezza assoluta. Quindi sta entrando nella fase della relativa. Esatto, della giovinezza relativa. Mm. Ma veniamo a qualche informazione in più su Tatiana Basso. Quindi, che ha ancora un decennio di giovinezza assoluta. Vorrei sottolineare. Un decennio, un mese. Un decennio. Giovinezza assoluta. Un decennio di giovinezza relativa. Ok. Ti sei perso negli aggettivi. No. No, sono questi. Oh, io non ho capito niente, però andiamo avanti perché lo spettatore, l'ascoltatore si annoia. Anche perché appunto, e dunque, invece, diciamo che Tatiana Basso, oltre a essersi diplomata in questa cosa complessa di mediazioni complesse, di arti contemporanee perché complesse. Perché avete degli insetti che vi non lo so, c'è un ospite, una mosca, forse Marco Roma che è Marco Roma che è riuscito che ci controlla. A Esatto, è riuscito a trasformarsi in mosca, e, come in quel film di Jeff con Jeff Goldblum, te lo ricordi? Vabbè, non divaghiamo, andiamo avanti perché il tempo il vola. Tempo è tiranno. Tatiana Basso si è diplomata a Bologna e poi invece è andata a fare il dottorato solo fino a Ferrara, quindi si è fermata un po' prima di Giovanna. Sì, è probabile che la mia sia la prima generazione che dall'Accademia ha potuto poi tentare il dottorato, mentre adesso c'è stata questa nuova conquista che non so che li facciamo sia proprio in Accademia, però ci sono anche, esatto, sì, sì, parleremo sì, anche sì. Di questo dei primi dottorati da Bologna. Giovanna, ne sono partiti dei dottorati già? Sì, sì, stanno partendo. Io per ora non mi ci sono messa dentro, comunque hanno... Sì, sono stati scelti i primi sei dottorandi. Sì. Dottorandi, adesso non credo che siano ancora partiti perché i risultati sono usciti la settimana scorsa o 10 giorni sì, fa. Sì, qui è stato fatto un ottimo lavoro da Cristina Francucci di Velocità. Di Velocità, perché infatti. Era un problema proprio di date che scattavano. Sì. Perché l'Accademia potesse attivare questi dottorati. Esatto. Sì, quindi. No, perché è proprio un processo complicato che implica appunto avere dei dottorati, cioè delle persone che hanno avere fatto dottorati. Dei come dottori. Si chiama? Dei dottori, esatto. Dei dottori in arte che possono avviare dei dottorati. Cioè, io per esempio non avendo fatto un dottorato non posso aiutare i dottorandi. Questa cosa un po' è una sorta di elite, è un po' il serpente che si muorde la coda, però, esatto. perché è un po' un cane la coda o un serpente che si comunque muorde in qualche coda. Modo questo serpente si è riuscito comunque a rescindere, quindi una ci coda. Sia, la esatto. coda se l'è morsa, forse si è staccata, sta di fatto che i dottorati sono effettivamente partiti. E vogliamo fare sapere magari qualcosa anche invece della ricerca artistica di Giovanna Caimmi. Vabbè, siamo qui per questo, perché abbiamo detto insegnante, dottoranda e anche artista. No, soprattutto artista, soprattutto. Cioè prima di tutto è artista, sì, dopodiché bisogna mettere anche... prima quello mettiamo prima sì, quello sì, da cui ma dopo metteresti dottoranda seconda o docente seconda? Quale metteresti? Qual è la tua classifica? Qual è la mia classifica? Ma ricercatrice non è male come parola. Mm-hmm. No, in effetti ricercatrice, perché ricercare fa parte molto del mio background, del mio comportamento normale. Eh sì, ricercare è... penso che gli artisti più o meno ricerchino. Sì. Tu, Chiara, ti vedi prima come ex professoressa di matematica, professoressa di anatomia artistica o artista o ricercatrice o co-conduttrice di Coxo Spaziale? Ma io seguirei un ordine cronologico. Ah, mi vedo prima di tutto come essere umano. Come persona che è nata a un certo punto, se volete, il 7 febbraio del 1968, così se volete contare gli anni potete togliere da 203 la... Poi è gemelli, sei gemelli dunque, che cos'è il 7 febbraio? Sono un acquario. E poi mi vedo come... Ma non è su di me la puntata, perché ho fatto molte cose, quindi sarebbe lunga. Arriviamo fino alle... Quindi saltiamo le tappe intermedie, e poi come insegnante di matematica ancora molto legata all'aspetto numerologico di tutte le questioni, e poi come... In effetti, i numeri poi sono... come insegnante di accademia e alla fine di tutto... Artista. Secondo me lo devono dire gli altri, questa cosa qua. Beh, io questa lo posso dire. Convinzione. Ho le competenze per dire. E allora se lo vuoi dire tu, però, artista, ok. E tu, Tatiana, come vuoi seguire una cronologia tua personale? Rispetto al dottorato, almeno relativamente a questa ultima fase di vita, e io il dottorato l'ho credo voluto fare in maniera latente sin da quando mi ero iscritta al liceo artistico e poi all'Accademia di Belle Arti, quindi facendo una strada che tendenzialmente non ti porta a fare poi un dottorato di ricerca. Quindi cioè, avevi questo desiderio? Sì, è una cosa, è un desiderio che ricordo fin da bambina. Cosa vuoi fare da piccolo? Potrebbe avere qualcosa da raccontarci. È interessante questa cosa. Io voglio fare il dottorato e per questa ragione ho scelto un percorso che non mi avrebbe mai teoricamente potuta perché portare, perché sennò era troppo facile. Cioè, già ho le idee molto chiare, se poi scelgo anche la strada normale rischio di arrivare anche prima dei tempi. E poi c'è stato questo adeguamento e per cui infine mi sono potuta candidare. Nel giro di 2 settimane ho pensato che l'avrei voluto fare, era uscito il bando a Ferrara E venivo da un'esperienza per cui avevo curato una mostra di arte telematica tra un concerto di live coding da remoto. Il live coding è una tecnica di scrittura digitale della musica che permette anche di far dialogare attraverso delle scritture dei musicisti a distanza o artisti visivi. E in quel caso appunto un artista, Luca Bonaccorsi, che era... doveva ritornare inizialmente a San Donà di Piave, dove sono nata, per portare le sue ricerche che stava svolgendo a Taipei, non ha potuto tornare per via del Covid, e quindi insomma da lì l'idea di organizzare una mostra da remoto, per cui appunto è stato importante questo concerto di live coding a distanza tra lui e altri autori. E in quel caso si è accesa la lampadina che mi ha portato poi a studiare le interazioni tra arte e tecnologie per la comunicazione a distanza, dal telegrafo alla telematica, che questo insomma è l'argomento di ricerca, è quella che sto ultimando, è una fenomenologia critica di queste interazioni, ossia studio cosa questo fenomeno, che poi si collega all'elettromagnetismo, ecco, a quello che produce a livello di immaginario, a quello che le telecomunicazioni hanno prodotto a livello geopolitico, economico, socio-economico e a livello anche di antropologico, rispetto alla concezione che l'uomo ha di sé, potendosi estendere, no, attraverso questi strumenti che sono le telecomunicazioni, e nel complesso questo va a comporre il lavoro, che una roba facile. Sì, no, porta avanti. Quanti caratteri sono la tua tesi di dottorato, visto che sapevi? Sì, prima chiedevo a Giovanna, che appunto diceva il mio è un tomo di 300 pagine, e ho chiesto se sapesse a quanti caratteri corrispondano, perché io attualmente ho solo i caratteri, i miei e caratteri sotto gli occhi, sono 400.000 attualmente, 400.000. Ma non ho idea di come fare. Ma sono proprio 400.000 a cifra tonda? C'è anche da dire che non ci potete spoilerare le conclusioni, perché c'è il rischio che qualcuno vi ascolti e si diplomi prima di voi con le stesse conclusioni. Certo, esatto. No, infatti poi noi teniamo in sospeso, ma secondo me comunque è abbastanza blindato l'argomento, cioè a me sembra, però non si può mai sapere. Non si può mai sapere, invece magari Giovanna... c'è qualcuno che sta facendo esattamente la stessa tesi di dottorato, che in questo momento sta passando da Pisa, stava andando a Padova, generando e sta passando un campo elettromagnetico in tangenziale su coxo spaziale, sente le conclusioni e dice ecco cosa mi mancava, capito? E per cui niente, bisogna stare attenti a quello che si dice. Va bene, rilassiamoci. No, invece io rispetto a quello che stava dicendo adesso appunto Tatiana, la mia storia è completamente diversa. Io non ho mai pensato di fare un dottorato in vita mia, e non sapevo praticamente neanche cosa fosse. Quando me l'hanno chiesto, e la cosa che mi ha attratto è il fatto che questi signori del nord Europa ragionano in un modo completamente diverso dagli italiani. Non ti chiedono una tesi di dottorato che continua a citare e a citare altro da te, libri letti, roba studiata. È chiaro che mentre lo fai stai sempre sui libri, però la cosa interessante è che ti chiedono di stare sul tuo lavoro, praticamente di capire qual è il motivo portante della tua vita e quindi del tuo lavoro, e i 4 anni che ci ho passato si sono intessuti di riflessioni che però si innestano sulla pratica del lavoro, ecco, e questa sarà la cosa difficilissima da far capire qua a Bologna per i nuovi dottorandi. Ah, dici che sarà difficile? No, perché io infatti la mia domanda mi tagliavano le mani se io mi limitavo a citare qualcun altro. Le prime volte che gli ho mandato degli iscritti hanno detto no, ci interessi tu come artista viva, non ci interessa assolutamente, è bellissima solo quello cosa. Che pensi, quindi prima parli di un argomento che tu hai affrontato, che stai affrontando, e solo alla fine ti è concesso di accennare a qualcun altro. Fantastico, è il contrario di quello logico, che facciamo noi. Cioè, sentita così adesso detta da te sembra logico, cioè, quindi invece è vero che da noi, ma perché da noi c'è una tradizione teorica piuttosto pesante. No, è che da noi è considerato che o tu sei, non so, ecco, a livello di artisti internazionali, o se parli del tuo lavoro sembri un presuntuoso. Sì. Invece loro hanno proprio in mente la ricerca, Conoscendo gli artisti italiani, qualche volta succede anche che lo sono, devo dire. Certo, la verità. Certo. Forse c'è un po' il serpente che si morde la coda. No, però mi interessava un aspetto. Sono delle, diciamo, dei percorsi di dottorato incentrati, quello di Tatiana no, è teorico, immagino, nel senso che si inserisce nella tua attività critica, curatoriale, critica, giusto? Spero che da lì possa anche nascere poi un progetto espositivo, però attualmente sì. Sì, però tu ti occupi di arte, diciamo, più appunto dal punto di vista della mediazione, dei contenuti teorici, certo, mentre sì. Invece Giovanna è un'artista. E anche il suo dottorato è un dottorato artistico. Esatto, cioè si prevede anche che tu faccia delle cose. Cioè, sì, io durante questi 4 anni le mostre che sono venute fuori erano sempre in relazione con i temi del dottorato. E adesso, quando verrà fatta la difesa del appunto in marzo, comunque ci sarà una mostra che in questa sede espositiva che è interna all'Università di Hasselt e che ospiterà tutti i lavori fatti in questi 4 anni. Bello. Una sala enorme, quindi ci sta tutto. E io spero che anche i dottorati di accademia abbiano questo taglio, perché sennò tanto vale andarli a fare a storia dell'arte, no? Cioè, esatto, cioè, proprio così. È così. Cosa dici? La vita vera. La vita vera. La vita vera. Lo scopriremo. Solo vivendo. Esatto. Certo. E vuoi aggiungere qualcosa? O? No, voglio. No, non voglio. Non c'è più quello stacchetto bello che c'era ai miei tempi. Quando c'era il momento di silenzio, mettevi sempre su non sappiamo cosa dire. Ah no, l'abbiamo fatto la volta scorsa. Non me lo ricordo. È che stavolta abbiamo un sacco da dire, per cui. Però era bello per appunto, lo stacchetto. No, mi chiedevo. Mi ero messo nelle scarpe del nostro ascoltatore distratto, che probabilmente si stava chiedendo che tipo di arte fa Giovanna Caimmi. Come la raccontiamo? Siccome lei ha capito qual è l'elemento portante della vita che gli richiede il dottorato, adesso è preparata per dirlo, no? Quindi l'elevator line presente. Io credo che, insomma, chi ha visto qualche mio lavoro avrà capito, o almeno io ho sicuramente capito, che solo quando sono arrivata alla carta e sono arrivata nel mio elemento primario, quindi il disegno su carta, disegni di talvolta di grandissimo formato, fino ai 6 metri, anzi praticamente mi devono tenere ferma perché sennò vado troppo in grande, e quindi questa, sì, è questa disciplina del disegno, però intesa in una maniera autoportante, cioè non il disegno che viene interpretato normalmente come schizzo per qualcosa, come progetto, come pensiero. No, è il disegno come opera che sta in piedi da sola. Sì. Ah sì, in effetti. E credo che col panorama contemporaneo abbia molte possibilità a questo mondo. Infatti cerco di consigliarlo ai miei studenti, perché in realtà c'è più spazio lì, secondo me, che dentro alle arti che sono, diciamo, proliferate in questi ultimi anni. Tra l'altro, a proposito del Belgio, mi è venuto in mente, oddio, adesso come si chiama l'artista belga che fa... Stai a vedere adesso com'è la figura che infatti, facciamo. Infatti, veramente. No, che è quello che fa Jean Fabre, no? Che sì, lui è diventato famoso con questi disegni giganteschi, e poi adesso si è messo a fare tutt'altro e altro. Adesso non si può più parlare di Jean Fabre in questo periodo, lo sai. Ah no, perché? Perché problemino di comportamenti etici non molto. Ah ok. Ne ha fatte anche lui. Ne ha fatte anche lui. Non ne vogliono più sentir parlare. Ho capito. Allora, parli a loro, nel senso chi? Cioè non ne vogliono più sentir parlare. Belgi. I conterranei. Dicono, non si può nominare questa persona. Non si può nominare. Ancora nulla ha dimostrato, però insomma diciamo c'è questo. Okay. C'è questo particolare. Vadi a tenere fermi gli artisti. Non lo so, che cosa ne pensi? Cioè, sconfiniamo su un territorio completamente diverso, iniziamo a parlare di non una di meno. No, non ci sconfiniamo. Non sconfiniamo, rimaniamo dentro. Ma e invece per chi non lo... Perché tu hai iniziato dicendo per chi ha visto qualche volta il mio lavoro, per chi non l'ha mai visto, per chi non ti ha mai neanche sentito nominare, perché può succedere. Ah beh, certo che può succedere, anzi succederà di sicuro. Il processo a cui ricorre l'inizio del disegno, da quella che tu hai definito una volta in un'intervista abbastanza recente macchia mantica. Eccoci, brava Tatiana. Macchia mantica. Esatto. E questo, diciamo, primo questa impronta che rimane su queste carte monumentali su cui poi procede il segno per, secondo me, queste accumulazioni di segno che però vanno come a scavare, cioè, nel senso, io vedo molto, sento molto il lavoro di Giovanna, molto psicologico, come se fosse attraverso questo segno che si accumula, che si addensa, come se venissero tirate fuori delle figure da una zona della psiche che non è quella diurna, ecco. E parte da questa macchia, su cui lascio la parola a Giovanna. No, lasci la parola a me, che fa così. Che saremo noi. Bentornati a Coxo Spaziale. E partiamo subito, cosa dici? C'era una domanda però che riguardava metti che qualcuno sia stato ad ascoltare attento. E poi fra 5 minuti deve andare a cena, era rimasto un po' da spiegare che cos'è la macchia mantica, cioè macchia è chiaro credo a tutti, sì. Mantica forse un po' meno, quindi Giovanna se ci vuoi illuminare. Vabbè. No, come diceva Tatiana prima, forse l'ho detta sta roba ma non me lo ricordo, ma comunque posso spiegarla. Semplicemente questo, io non parto mai da una superficie bianca, il bianco, la tela bianca, la carta bianca non mi parla, non mi ha mai parlato, e la cosa migliore per me è partire da una macchia che suggerisce qualcosa al tuo inconscio, e il tuo inconscio, come diceva appunto Tatiana, va nelle direzioni in cui vuole andare. Quindi credo che la maggior parte del tempo, degli ultimi 20 anni, devo averlo passato a cercare di leggere i fondi del caffè. Lasciare la possibilità di andare, cioè di far uscire le cose senza pensare. Insomma, un atteggiamento, diciamo, junghiano verso la creazione? Non lo so, un atteggiamento di chi non ha. Non vuole sapere prima di farlo ciò che sta facendo. Poi è chiaro che una persona ha il background di cultura visiva, tanta, insomma, e poi io sono italiana, ecco, quindi ho la cultura italiana alle spalle. E quindi tutto ciò interferisce, però c'è anche un meraviglioso viaggio nell'ignoto che deve mantenersi. Allora noi leggiamo dal dizionario invece, mantica, l'arte della divinazione nel mondo antico, ma anche nel mondo contemporaneo, quindi. Esatto. Non solo nel mondo antico. La manzia, esatto. La manzia. Vedi? Hai capito, si impara la sempre qualcosa. Incredibilmente anche a Coxo Spaziale si impara qualcosa. Infatti, veramente. Bene. Andiamo con le menzioni? Direi che possiamo andare con le menzioni e dunque fare questa cosa qua. Impariamo cosa l'angolo c'è. L'angolo della menzione. Giovedì 3, comincia proprio così. Comincia con l'Accademia. Esatto. Giovedì 3 ottobre alle ore 11 nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna si terrà l'evento inaugurale della nuova biblioteca che dopo anni di chiusura e un significativo restauro torna a essere fruibile dalla comunità accademica e dall'intera cittadinanza. Dopo l'incontro in Aula Magna si potrà visitare in anteprima la biblioteca in via del Guasto 7. La biblioteca intitolata a Vincenza Riccardi Scassellati, storica dell'arte e prima direttrice donna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, come atto di stima e ringraziamento per il lavoro svolto. Tale omaggio, fortemente voluto dalla presidente Rita Finzi e dalla direttrice Cristina Francucci, è stato espresso visivamente da un'installazione ideata dalla fumettista, illustratrice e docente Sara Colaone. Tutto questo è giovedì alle 11 all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54 a Bologna. E sempre giovedì 3 ottobre alle ore 18 la piccola galleria di via Marsala 31B in collaborazione con Exit abbiamo la mostra di Maria Sole Bazzacchini con Luccichio. Una fruttificazione segreta, un bagliore misterioso e il silenzio invita ad immergersi nel bosco e la natura selvatica si espande ovunque come un miraggio. L'artwork è frutto della collaborazione con Exit, un progetto indipendente di arti performative e pratiche partecipative radicato dal 2022 nel bosco urbano di Prati di Caprara, Bologna, a cura di Olivia Teglia e Lucia Fontanelli. E dunque 3 ottobre alle 18 in via Marsala 31B, la piccola galleria. Poi sabato 5 ottobre alle ore 11 invece andiamo fuori porta, perché la Fondazione Sabe per l'Arte presenta Fotografie e Femminismi, che è una mostra che ti dovrebbe interessare, Chiara. Storie e immagini dalla collezione Donata Pizzi, mostra collettiva a cura di Federica Muzzarelli, realizzata in collaborazione con il gruppo di ricerca FAF, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna. A partire da una selezione di immagini proveniente dalla collezione Donata Pizzi, la mostra Fotografie e Femminismi mette in dialogo il lavoro di diverse generazioni di fotografe e artiste operanti nel panorama italiano degli ultimi 50 anni. E abbiamo sentito Federica Muzzarelli che ce la racconta brevemente. Eccola qua. Sì, questa mostra che si apre alla Fondazione Sabe per l'arte contemporanea si intitola Fotografia e Femminismi. Io mi occupo di fotografia, insegno all'Università di Bologna e questo tema è un tema a cui mi dedico per didattica, soprattutto per ricerca, da un po' di tempo, e infatti anche questa mostra nasce anche dalle attività di un gruppo di ricerca che ho con alcune colleghe studiose di arte contemporanea, di fotografia e di femminismo in Italia, che sono Raffaella Perna, Cristina Casero e Lara Conte di Sapienza, Roma 3 e Parma. Ecco, in particolar modo poi per questa mostra la Fondazione Sabe sono partita da una collezione molto particolare, devo dire anche lungimirante, che è la collezione di Donata Pizzi, una fotografa, lei stessa, una donna molto attiva e impegnata, che circa 10 anni fa ha pensato appunto che ci fosse bisogno di valorizzare appunto con un'attività collezionistica la fotografia, l'attività fotografica delle artiste italiane. Così soprattutto dagli anni 60 in poi si è costituito questo fondo di opere, di fotografie davvero interessante. Nello specifico della mostra ho lavorato su alcuni temi chiave, sia per la fotografia, possiamo dire, anzi assolutamente delle dimensioni del fotografico importanti, sia per quello che mi sembrava riunire, naturalmente non in maniera esclusiva, però molto interesse da parte delle artistiche e delle fotografe italiane. Questi nuclei sono quello dell'album di famiglia, quindi della memoria, del ricordo, il tema dell'identità di genere, per esempio l'identità di genere sono presenti le opere, lavori molto noti di Lisetta Carmi e di una generazione invece più giovane, Giulia Iacolutti, nell'album di famiglia, non l'avevo detto, c'è Tommaso Binga, Bianca Menna, con un lavoro molto noto, oggi spose, artiste più giovani, per esempio come Moira Ricci e Alba Zari. Poi c'è ancora un nucleo che riguarda gli stereotipi, per esempio c'è Liliana Barchiesi, che è un'autrice molto, molto nota, con Alessandra Spranzi, e poi censure, ruoli sociali, in questo caso l'artista storica è un'artista verbo visiva, Lucia Marcucci, che dialoga con Martina Della Valle. E poi ancora nella mostra, oltre a questi lavori, c'è anche un lavoro molto noto di Paola Mattioli, Cosa ne pensi del femminismo, e le maquette originali, alcune delle maquette originali riprodotte sulle quali lavorarono le artiste del gruppo del Mercoledì, che poi pubblicarono nel 78 questo volume molto noto, Ci vediamo mercoledì e gli altri giorni ci immaginiamo, e tutte queste opere, questi lavori, queste fotografie appartengono appunto alla collezione di Donata Pizzi. Quello che intendevo fare era mettere in luce una sorta di dialogo intergenerazionale a distanza in cui si evidenziasse come alcune questioni dell'identità tutta della fotografia, appunto la memoria degli album o la possibilità di concretizzare il genere, l'identità, così come mettere a nudo gli stereotipi e i ruoli sociali, radunassero appunto in maniera quasi in un montaggio parallelo l'interesse anche delle donne, delle fotografe italiane. Una selezione piccola, comunque ecco, adatta a una galleria, a uno spazio privato, però con lavori, alcuni storici interessantissimi, alcuni magari meno note, ma di artiste estremamente interessanti. E questo è appunto alla Fondazione Sabe per l'Arte a Ravenna in via Giovanni Pascoli 31, inaugurazione sabato 5 ottobre alle ore 11. E sempre sabato 5 ottobre dalle 16, Prospettive, il programma di residenze d'artista in Emilia-Romagna a cura di Adiacenze, prosegue con l'inaugurazione di Che sia prospero di Alessio Barchitta a Granarolo dell'Emilia. L'artista ha lavorato sulla figura enigmatica del brigante Prospero Baschieri, vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800 nella provincia di Bologna. L'evento è a cura di Beatrice Facchini e Greta Pasini, in collaborazione con Giorgia Tronconi e Amerigo Mariotti di Adiacenze. Si divide in due appuntamenti. Sabato 5 ottobre dalle 16 a Villa Fibbia, via Savena Abbandonato 2, Granarolo dell'Emilia, mi piace Abbandonato 2. Il pubblico sarà invitato a partecipare a una performance, alla visione delle opere prodotte da Barchitta durante la residenza dello scorso giugno. E sabato 12 ottobre dalle 12, quindi non è solo sabato 5 ottobre, ma è sabato 5 ottobre e sabato 12 ottobre dalle 12, l'opera installativa verrà esposta nel parcheggio sul retro del comune di Granarolo dell'Emilia. E maggiori informazioni le potete trovare ovviamente sul sito di Adiacenze, www.adiacenze.it. Sempre sabato dalle 17 alle 21 Labs Contemporary Art è lieta di presentare Tra loro, bipersonale delle artiste spagnole Elvira Amor e Julia Huete, a cura di Cecilia Canziani. Il progetto presenta una selezione di opere ambientali inedite. La mostra mette a confronto il lavoro di due artiste, Elvira Amor e Julia Huete, due voci che, pur condividendo una ricerca sull'astrazione, sviluppano un dialogo attraverso linguaggi artistici distinti. Tutto questo a Labs Contemporary Art in via Santo Stefano 38 a Bologna, sabato dalle 17. E così abbiamo finito le menzioni, ma ce n'è un'altra, esatto, che come al solito un fuori porta fuori programma che ci dice Tatiana Basso che adesso c'è un'aspra contesa con la mostra curata da Cecilia, in effetti, però inaugurerà questo per quel che riguarda te, dove vado? Che il 5 ottobre 2024, ovviamente, a Soliera, il Castello Campori, inaugura la mostra su Lorenzo Bonecchi, Il Codice del Sacro, cura di Antonio Natali e il figlio di Lorenzo Bonecchi, Giovanni Bonecchi, che è una mostra che cade al 30° anno dalla morte dell'artista. E è stato questo artista, a mio avviso, meraviglioso, che ha partecipato al ritorno della figurazione negli anni 80, e diciamo che è un artista che ha attraversato, da Piero della Francesca, questi riferimenti toscani molto evidenti, e che ricordano anche il Carrà del ritorno all'ordine, ma postmoderno, quindi insomma comunque un altro tipo di colori, un altro modo di intendere comunque il sacro. Lui aveva detto di aver avuto una vocazione, in effetti, però poi ha fatto il pittore. Ah, ecco. Una vocazione in senso religioso? Sì. E dunque, se siete a Soliera, sabato Soliera, anziché andare a Labs, oppure anziché andare a Granarolo delle Miglie, oppure anziché andare a Ravenna, insomma... Oppure potete avere una macchina molto veloce e farvi tutte le inaugurazioni. Esatto, comunque strecciare. Naturalmente domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete i link per andare a vedere tutte queste mostre formulare programmare il vostro itinerario. Abbiamo un messaggio da uno Stefano che dice: mi piace questa trasmissione e viva la ricerca. Va bene, guarda Stefano, siamo molto contenti. No, anch'io sono molto contento. Siamo contenti di questo messaggio. Effettivamente condividiamo anche questa passione, direi, no? Sì, abbiamo convenuto che forse ricercatrici è un termine che così può racchiudere un po' tante anime in cui ci riconosciamo. Anche tu sicuramente. Beh sì, sicuramente. Anche tu sicuramente. Sicuramente, anche Pasquini, anche tu sei ricercatore. Non lo so quanto posso essere un ricercatore forse io. Forse lui no. Forse no, un po' poco. No. L'ho messo solo così, come, come stacchetto. Ci possiamo parlare sopra. Ci possiamo parlare sopra. Grazie di avercelo sopra. Detto a noi per educazione, contrariamente no, a quello che fai anche tu. Anche perché vi avevo abbassato, per cui educazione o non educazione non ci avrebbero sentito. Non vi avrebbero sentito. Va bene, allora Stefano non è ricercatore, però c'è da dire che si muove tantissimo, sempre in giro, quindi non so cosa, se non è in giro a ricercare qualcosa. Non so. Sì, a Modena si dice a fag l'artesta. Ah, l'artesta. Altrimenti... Salutiamo Franco Vaccari. Esatto, salutiamo Franco Vaccari, che anche lui alfa l'artista. E niente, salutiamo anche Felix di Boom Rush Promotions che mi manda questi fantastici pezzi reggae sempre. Questo è Mortimer con Bruises. Bruises. Capito. Sai cosa vuol dire? Rumore. Bruises sono i cosi, quelli che ti rimangono, come i succhiotti? No. Stava facendo un verso che uno in effetti, gesticolava come cazzo si dice bruises? I ponfi delle zanzare, non lo so. No, quando sbatti lo stinco contro uno spigolo ti rimane il livido, ecco, bruises e lividi. Adesso Però non si sa, la noi è bello perché noi non sappiamo quando ci siamo, quando non ci siamo. No, c'è ci un siete. Ascoltatore attento, ha detto che non sopporta quando io e te ci parliamo sopra. Ah. L'uno con l'altro, dice che è bruttissimo radiofonicamente questa cosa, capito? Allora non farlo. Io devo stare qui. A proposito di patriarcato, esatto. No? Esatto. È per quello che devi fare la regia tu. Io in effetti sto molto meglio di là perché mi potete abbassare. Cioè Fedra mi abbassava continuamente. Ecco, però io vorrei tornare a una cosa. Ricercatori, grazie, Giovanna. Però non come la pensava Picasso. Perché Picasso diceva ci sono gli artisti che cercano e gli artisti trovano. Che trovano, io sono un artista che trova. Infatti per quello che Pasquini non voleva aderire al nostro, perché lui si sente picassiano. Quindi non bisogna sentire la ricerca in quel senso lì. Sono d'accordo. Comunque ecco. mi sento leggermente offeso dall'essere definito picassiano. Perché se c'è un artista che mi sta sul cazzo, proprio lui. Non lo sapevo. No, io sono un merreiano e Merrey in molti dei suoi scritti scriveva quanto gli stava sul cazzo Picasso. Hai capito. Cui, e quindi va bene. Diciamo. Ma io ti abbiamo offerto l'opportunità di chiarire questo aspetto della tua ricerca. Grazie. Invece io volevo che Giovanna adesso, per par condicio, ci chiarisse aspetto della ricerca di Tatiana negli ultimi anni. No, anche perché abbiamo 5 minuti rimasti perché ci sono gli amici di Panta 80 che fremono fuori dal nostro studio. Io non so molto della ricerca che sta facendo Tatiana perché non ho visto di quello che sta scrivendo, però ecco una cosa che le ricordavo poco fa è il fatto che in realtà Tatiana, quando era studentessa dell'Accademia, aveva un vero talento e avrebbe potuto scegliere anche questa strada, la strada dell'artista. Lì era un po' lei, non so se l'ha mai accettato questo fatto, però mi ricordo che avevamo questa mostra che stavamo organizzando per gli studenti dentro a Palazzo Pepoli. Io avevo lo studio praticamente disastrato perché lo stavano ristrutturando, quindi sembrava un luogo del terrore, ecco, io mi ero dovuto spostare altrove. E lei le diedi le chiavi a lei e a Valentina Daccardi, anche lei. Che abbiamo avuto ospite anche esatto. Lei. Qua. Ecco. Mm-hmm. E Tatiana si fece un finto, diciamo, un body painting totale in cui simulava di essere lo spellato di Ercole Lelli. Wow. E si distese sulle macerie interne dello studio e la Valentina Daccardi, che è sempre stata una grande fotografa, le fece questi scatti. Cavoli. Bellissimi. Quindi fece veramente un, un atto performativo, ecco, la Tatiana. E c'è prova documentaria? C'è prova documentaria, io ce l'ho ancora queste foto. Ecco, bene, possiamo postarle sul blog di Coxo Spaziale. Non credo, cioè, che non Tatiana sarebbe contenta, di averle postate sul blog, ma però glielo chiediamo. Beh, andarono in mostra, ecco, infatti. Quindi, no, allora se, sì, se andarono disponibili a farlo. Cioè, se tu non hai nulla da obiettare, no. Giovanna ce le manda. Giovanna ce le manda e noi le pubblichiamo. Per cui no, diciamo che lascio i nostri peggiori ascoltatori domattina saranno su www.coxospaziale.blogspot.com, perché in effetti come spellata di Argonelli. Ma perché anche tu mi insegni anatomia. Sì, ma non era quella che si parlava della città di Bologna, in cui, non mi ricordo, io non mi ricordo mai cosa abbiamo fatto. L'idea era produrre una guida immaginifica della città ecco, di Bologna. Ah, ecco, la guida immaginifica, è vero. E così c'erano le foto dei bombardamenti con l'archiginnasio, che erano appunto cadute, franato, e tutte queste statue biologiche portate fuori e appoggiate così sulla massicciata in tempo di guerra per salvarle, capito? E lei si finse uno di questi spellati, quindi fu bellissima come ormai come la curiosità, no? No, infatti, vi è cresciuta notevolmente. Sì, vorrei infatti vedere questo lavoro. Come siamo messi? Siamo messi benissimo. Abbiamo un minuto e mezzo per ringraziare i nostri ospiti, le nostre ospiti. E poi quindi chiedere, non lo so, hai un'ultima domanda? Avete un qualcosa che volete dire a vostra difesa, che manca, visto che dovete sostenere questa difesa? Diteci il titolo della vostra tesi di dottorato, se c'è già. Titolo, certo, proprio. Certo. Double track. Che significa doppio binario, e perché è una ricerca sulle tensioni, le passioni che portano dal nord al sud Europa e viceversa gli artisti degli ultimi 500 anni, ma è riferito a me perché io ho una nonna che non era italiana, appunto era cecoslovacca, e quindi ho sempre sentito un'attrazione. Io quando vado verso il nord sto bene. E dunque qualcuno te l'ha mai detto, ma tu sei cecoslovacca? Un pochino. Perché solo le cecoslovacche hanno quel fuoco negli occhi. Ecco, chi l'ha detta questa cosa? Questa è una citazione. È una citazione da Marcord. Ah, ok. Capisco. Quindi sì, è il doppio binario, è andare avanti e indietro come dei matti cercando l'altro da sé. E invece il fuoco negli occhi di Tatiana, che titolo ha? È il titolo di prima, in realtà, quindi una fenomenologia critica delle interazioni tra arte e telecomunicazioni, dal telegrafo alla telematica. Ma visto che su di questo un po' ne abbiamo brevemente parlato, io avevo una domanda per Giovanna che mi aveva incuriosito, uno sviluppo di un suo lavoro, The New Development of the Apocalypse of St. John, ed è appunto questo lavoro che adesso in mostra a Leuven, l'ho detto bene? Sì, sì. Ecco, e per cui se siete a Leuven andate. Chi si trova a passare per Leuven, vadi. Che nasce da questo, è un'opera che nasce dallo sviluppo che è dato dall'incontro di due opere. Sì, opere, di cosa si tratta? C'è CADOC, che è questo centro di documentazione dati, un archivio di 50 km di dati sotterranei ad una chiesa. La chiesa ci è stata data perché era una chiesa in rovina, e quindi Watermans è il titolo della mostra. Cosa rimane? Cosa rimane di tutto ciò che viene, diciamo, che perde la sua funzione come una chiesa? E lì dentro ho messo questo grande lavoro, in cui ho messo un lavoro che ho fatto 10 anni fa in dialogo con un lavoro che stavo iniziando, quindi è stato un'opera di grande formato. Ma ho anche messo un tavolo con una dozzina di scatole di metallo, di materiali che andavo a pescare dentro l'archivio, chiudendomi là dentro da sola, una cosa veramente affascinante. E che per via dell'image thinking riuscivano a dialogare l'uno che con l'altro. Che è il metodo che utilizzate? Che il metodo che ci siamo trovati, nel senso che io l'ho sempre utilizzato, anche Patrick Sessions e gli altri lo utilizzano, e il pensiero per immagini, che è il pensiero dell'artista, perché l'artista pensa per immagini. Quindi andare a pescare dentro un archivio e da un'immagine andare ad un'altra, e i sensi che vengono fuori, cioè il senso che viene fuori è... Un po' una warburgiana. È complicato, è esatto, è una warburgianata. Una warburgiana. Ringraziamo tantissimo Giovanna Caimi che è venuta a raccontarci tutto questo, e Tatiana Basso che anche lei ci ha raccontato un po' di quello che poi ci racconterà in futuro, perché naturalmente siete una volta venute al Coxo si torna sempre, per cui vi invitiamo a tornare non appena avrete qualcos'altro da raccontarci. Io ero Chiara Pergola, naturalmente. E io ero Stefano W. Pasquini. E questo invece è il nostro direttore, che come al solito ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Simulating ecstasy, oh.